Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Disabili e indignati, insieme perché ci si indigna anche per le condizioni in cui vivono le famiglie con persone diversamente abili. Ha ucciso il figlio disabile e poi ha tentato di togliersi la vita. La tragedia si è consumata da Fragola, in provincia di Napoli. Buongiorno, sono Chiara, vivo a Roma e da circa 3 anni, anche un po' di più, vivo in una condizione di arresti domiciliari. Io sono in questa condizione non perché ho commesso qualche reato, ma perché amo profondamente mio figlio e, come tutte le persone che hanno un familiare che vive una disabilità molto grave, a un certo punto ho dovuto scegliere se dare, garantire a mio figlio una vita dignitosa, per cui rinunciare completamente alla mia, oppure continuare la mia e lasciare mio figlio al suo destino. Sapete su quale argomento in questo momento sta fibrillando e è mobilitata tutta l'informazione nazionale? Sulla tripletta televisiva che ci sarà questa sera, Berlusconi, Renzi, Grillo, non si parla d'altro. Tutte le redazioni sono mobilitate, avranno chiamato già 3 o 4 testate a cui collaboro per chiedermi: lo guardi questa sera, mi raccomando, domattina ci fai il resoconto. Sai che botta di vita che sarà, potrei raccontarvelo già da adesso. In realtà ho sfogliato i giornali, ho cercato lungamente dei contributi audio perché mi aspettavo che una notizia che mi è arrivata nelle agenzie venerdì fosse oggi abbastanza al centro dell'attenzione, anche se non proprio centrale. Invece ho visto molto poco, quasi nulla. E questo è sintomatico, perché il tema di questa notizia, che avete capito, che è la disabilità, non lo vedo nemmeno molto presente nei programmi di tutti i politici che stanno girando l'Italia, naturalmente, per fare una giusta, lecita e opportuna campagna elettorale. Eppure il problema del nostro paese è veramente drammatico. Lo dico perché le agenzie che mi sono arrivate, immediatamente ho telefonato mandando un sms alla persona con cui questa mattina assieme a me per spiegarmi questi dati, vengono dal terzo numero del diario della transizione del Censis. Il Censis pubblica appunto questi diari dove ci sono dei temi importanti, dei temi che segnano un passaggio molto difficile. I primi 2 quaderni hanno interessato l'austerità, il senso, si diceva, questa sorta di sobrietà che sembrava la linea che ci fosse imposta. Il secondo quaderno, ci avviciniamo, era del 3 maggio, era sulle diseguaglianze sociali. Questo terzo quaderno in realtà tratta un tema che difficilmente diventa notizia, a meno che improvvisamente, che ne so, un genitore si suicida con il disabile, un disabile psichico fa una strage, accade che in un istituto scoprono sorveglianti o maestre che torturano disabili, allora sono tutti pronti a gettare le lacrime, a strapparsi le vesti. Giuseppe Roma, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Roma, sociologo, direttore del Censis. Vediamo di dare, nel breve tempo che abbiamo a disposizione, un quadro esatto che a me ha particolarmente, diciamo, colpito di quello che avete messo assieme. Aumenta il numero dei disabili nel nostro paese, ma aumentano come se fosse una sorta di massa umana magmatica che nessuno individua, nessuno sa che è. Continuano ad essere comunque nella percezione generale una sorta di materiale umano in necessità di stoccaggio, purché non si veda, purché non dia fastidio, purché non faccia riflettere. Beh sì, è una logica conseguenza del fatto che rispetto alle disabilità non ci sia informazione e conoscenza, sia limitata alle famiglie che fondamentalmente sono i principali soggetti di assistenza, e quindi un paese che si dimostra anche in questo caso poco sensibile laddove i disagi, i problemi sono molto forti, ma magari appunto non hanno nell'opinione pubblica quella penetrazione che invece possono avere altre cose, insomma la coppia che non riesce a trovare la casa, il mutuo non dato ai giovani precari, lo stesso precariato del lavoro, quando noi invece abbiamo delle situazioni abbastanza estese. Sono più di 4 milioni le persone con disabilità e cresceranno nei prossimi 6 anni a quasi 5 milioni. A cosa è data questa crescita? A uno screening più attento o ci sono anche delle circostanze per cui ce ne sono di più, secondo voi, dal vostro punto di vista? Ma io credo ci siano certamente dei fattori di carattere generale che portano a un aumento della disabilità, pensiamo semplicemente all'incidentalità stradale piuttosto che a fenomeni più impalpabili come quelli del disagio familiare e tutti i problemi ad essi connessi. E io penso che uno dei dati che mi ha più colpito è che nella percezione degli italiani i disabili sono disabili motori, cioè quelli che troviamo, che vediamo, perché li vediamo, perché c'è una carrozzina, perché non riescono a muovere. Senza carrozzella non esiste disabilità. Mentre secondo gli ultimi dati ufficiali, perché questi che ho detto in precedenza sono delle stime che abbiamo fatto noi, ma i dati ufficiali Istat ci dicono che meno della metà sono disabilità motori, cioè che c'è un ampio spettro di sindromi che riguardano, diciamo, che per cui non si vede. Sostanzialmente la disabilità è relazionale, la disabilità può essere intellettiva, può essere sensoriale, quindi ci sono delle altre disabilità e queste sono proprio completamente nascoste. Un italiano su quattro, leggo nel vostro rapporto, dice che non gli è mai capitato avere a che fare con persone disabili, che sembra quasi impossibile visto che quasi l'8% della popolazione è comunque toccato da disabilità. Sì, e penso ci sia anche questo fattore, cioè ci sono disabili che non appaiono fisicamente, che quindi vengono completamente ignorati. 800 24 00 24, oggi parliamo degli invisibili, i veri invisibili nel nostro paese. È una popolazione enorme, 4,8 milioni nel 2020, voi pensate quasi 5 milioni di persone che passano come fossero trasparenti di fronte agli occhi delle persone, della percezione generale. Immaginate quanto possano stare a cuore le istituzioni. Stiamo seguendo campagne elettorali fatte sulla sacrosanta, lecita, giustissima, sottoscrivibile salvezza dei cagnolini e dei micini, ma non vedo perché, chissà, parlare di disabili evidentemente non è demagogicamente proficuo. Giuseppe, dalla provincia di Teramo, buongiorno. Salve Gianluca, e io chiamo perché per una disabilità che ti vede particolarmente presente, mio figlio è autistico, e chiamo per manifestare esattamente quello che hai appena detto. Mio figlio autistico è un disabile invisibile, nella gran parte dei casi sono bellissimi bambini che stanno bravi, buoni a casa, bravi, buoni, segregati nelle loro stanzette della scuola, nessuno li vede, nessuno ha modo di capire che tipo di disagio ci possa essere per le famiglie dietro. Mia moglie è fondamentalmente una segregata perché ha dovuto lasciare il lavoro, segue 24 ore su 24 mio figlio, sebbene abbia le sue autonomie, però ovviamente la socialità ti vede come una persona normale, non capisce che la disabilità psichica è una disabilità che si vive a casa. Che è all'attenzione di una commissione del Senato un testo unico di legge sull'autismo, stanno un po' menando il can per l'aia, stanno rimandandolo di mese per mese, lo sto seguendo anche di persona, lo dico per confortarvi, sì, sì. Ma sembra che la percezione generale della politica sia che della disabilità, soprattutto di queste disabilità poco presenti, che non si possono portare in piazza, che non si possono etichettare o raffigurare in un logo, non importi niente a nessuno. Carlo, buongiorno. Buongiorno, sì. Telefono dalla provincia di Cuneo. Mio figlio, affetto da un'invalidità del 75%, lavora presso una cooperativa con una retribuzione mensile di 580 euro mensili. Non gli spettano gli 80 euro, perché? Lo domandi a chi, al nostro Presidente del Consiglio, non so che dirle evidentemente, perché non gli aspetta gli 80 euro. Perché è sopra la soglia dei 1200 euro, sotto la soglia dei 1200 euro. Quindi lei dice in questo provvedimento gli 80 euro, che è un altro dei cardini portanti di questa campagna elettorale, nessuno ha considerato che tra le categorie disagiate ci sono anche disabili che svolgono un lavoro. I pochi fortunati, perché adesso come ci dirà Giuseppe Roma, trovare un'occupazione anche semplicemente socialmente utile, anche semplicemente con scopo abilitativo, terapeutico per un disabile, sembra quasi impossibile. Giuseppe Roma, discorso disabili e lavoro, perché mi sembra che un altro tema toccato dal vostro diario, ma assolutamente invisibile in ogni programma politico. Sì, perché in fin dei conti, fin quando si tratta di integrazione scolastica, cioè quando un disabile è un bambino, un alunno, sta fino ai 13-14 anni, in fin dei conti c'è un'inclusione all'interno delle scuole, ma il problema vero è che quando si diventa più adulti l'invisibilità diventa ancora più forte, perché sia si esce dai circuiti formativi e scolastici, soltanto il 7% dei disabili dopo i 20 anni sono in un'università, una scuola, eccetera, ma soprattutto poi per tutto quello che riguarda il problema del lavoro, il lavoro non è a disposizione della disabilità vera, evidentemente, perché ci sono queste leggi che obbligano all'assunzione di persone con disabilità, evidentemente sono disabili abbastanza visibili, nel senso che poi hanno una capacità di lavoro assolutamente normale, poi magari hanno altre forme di disabilità. Certo, quello che noi vediamo è che sopra i 20 anni, per esempio, appunto le persone con autistiche, solo il 10% ha una forma di inserimento lavorativo, molto spesso, come si è detto, anche in cooperative o in cooperative sociali che utilizzano questo tipo di competenze di lavoro semplicemente come inserimento sociale, e quindi sia le retribuzioni che come dire, la possibilità anche di integrazione in processi di lavoro è relativamente molto blanda. È puramente simbolica, diciamo. Certo, infatti se noi pensiamo che il 97% dei disabili vivono con le proprie famiglie, che questa anche quando la disabilità... Il 97%? 96% si vivono in casa con la propria famiglia, e l'attività di assistenza diretta e di vigilanza, in tanti casi penso appunto le situazioni più psichiche, porta nella dichiarazione che hanno fatto le famiglie arriviamo a 17 ore al giorno. Quindi scusami Giuseppe, ma... I quasi 5 milioni di disabili che saranno nel 2020 equivalgono più o meno a 5 milioni di famiglie, non di individui, quasi, a questo punto. Ma certo, toccati dal problema. E certo, perché pensiamo anche poi a quello che sarà dopo che i genitori avranno un'età non più in grado di occuparsi dei disabili, perché diciamo francamente non solo si spende poco rispetto agli altri paesi europei, circa il 20% in meno è la spesa sociale per la disabilità in Italia, ma soprattutto è una spesa diciamo molto legata a una contribuzione in denaro più che in servizi, mentre io credo che sarebbe un mix indispensabile quello di avere anche dei servizi e delle forme che consentano alla famiglia di poter guardare anche con una certa serenità al futuro di questi ragazzi. Pensiamo che ha una sindrome Down, ha una speranza di vita che supera i 60 anni. Quindi ecco, ci fermiamo un istante Giuseppe Roma, perché dobbiamo dare la linea alle informazioni del traffico, però su questo punto riprendo proprio fra un istante con te. Che fine fanno questi 5 milioni di disabili? Perché se hanno un'aspettativa di vita piuttosto alta, nella media diciamo, quasi nella media, cosa succede a loro quando a un certo punto scompaiono dalla società e smettono anche di essere parzialmente invisibili, perché nessuno li vede, ma proprio non ci sono più? Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, parliamo dei quasi 5 milioni di disabili invisibili, di cui nessuno parla, di cui nessuno ha cuore quale sia la loro fine quando crescono. Al 98%, come ci ha spiegato Giuseppe Roma, sociologo, direttore del Censis, che ha stilato un diario proprio su Diario della Transizione, sono delle pubblicazioni del Censis proprio su questo problema, al 98% a carico delle famiglie, ma quando i genitori invecchiano, quando non ce la fanno più, che fine fanno? Nessuno sa rispondere a questa domanda. Marina, buongiorno. Buongiorno, io invece parlo di un caso di una persona anziana, mio papà ha 79 anni, è disabile al 100%, mia mamma ne ha 70, sono anni che è votata a curarlo, e quando abbiamo chiesto l'accompagnamento, perché economicamente li aiutiamo io e le mie due sorelle, gli hanno detto che siccome deambula non ha diritto all'accompagnamento. Beh, questa è una, stato... è una solenne strozzata, che gliel'ha detto lo deve denunciare, non esiste. Lo so. All'accompagnamento ha diritto anche un disabile psichico che ha delle belle gambe molto muscolose, gliel'assicuro. Cioè, il mio padre non parla perché nell'ultimo intervento gli hanno tolto la gola e la tiroide, quindi non parla più ormai da un anno e mezzo, lui cerca di farsi capire, manda mail, litiga via mail perché comunque ha una tempra, la testa gli funziona ancora bene. Ma quando siamo andati a accompagnarlo all'appuntamento, i medici gli hanno detto entra solo il paziente, gli abbiamo detto se lo capite, e hanno detto signora deambula, non ne ha diritto. Mia mamma gli ha risposto ci manca solo che me lo ma non è vero, è un'interpretazione sbagliata della legge, guardi, si prende un avvocato e faccia ricorso, non è assolutamente così, l'hanno presa in giro, non è vero. Allora tutti i disabili psichici non avrebbero diritto all'accompagnamento, è un'assoluta assoluta boiata. Prenda un avvocato e si ripresenti e denunci la persona che gli ha detto questo. Virginia, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, complimenti a lei e alla trasmissione tutta Radio 24 per l'informazione che fate, siete molto utili. E io le vorrei esporre il problema che ho in famiglia, ho un fratello che ha il 45% di invalidità, dopo circa 30 anni di lavoro in un'azienda dove era stato assunto come invalido civile per il postumo di un'encefalite avuta a 4 anni, e l'azienda ha chiuso per fallimento da 220 operai, ora tutti a casa. Lui è stato impiegato per 6 mesi con una borsa lavoro a 300 euro al mese, 5 euro al giorno da lunedì a venerdì, e la cosa gli stava pure bene perché sostenuto dai fratelli poteva anche andare. Ora vive solo perché con lui stava la mamma invalida al 100% che è stata messa. Andiamo al punto, qual è la domanda? E di cosa vivrà ora mio fratello? Non ha diritto alla pensione perché mancano circa 10 anni, non ha diritto a alcun sostegno, ha finito la cassa integrazione, ha finito la mobilità, non ha più nulla. Di che vivrà? Chi gli darà lavoro? Le dicevo, rispetto a ogni altra categoria di lavoratori sono in situazioni simili, suo fratello non ha nemmeno l'autosufficienza, quindi ha comunque un problema in più. Gino. Buongiorno. Gino, buongiorno signor Nicoletti. Sì. Sono Gino da Santa Margherita Ligure. Sì. Seguo sempre la. Ma andiamo al punto che c'è poco tempo. Ascolti, io ho 70 anni, ho avuto un dramma in famiglia, lei lo vive tutti i giorni, invece me. Sì, andiamo al punto però. Mi è mancata. Ascolti, io ho fatto volontariato lì alle croci, verdi, rosse e gialle. Sono uno scandalo. Persone che sono lì a mendicare la questua quando portano i pazienti alle diali e così. Io, ecco, quel signore che era lì, che non ricordo bene chi era, se è importante, faccia una richiesta alle ASL o alle regioni, alle sanità delle regioni, togliere quelle persone lì a questuare, dico senza scrupoli, a rubare i soldi, e facciamo volontariato presso queste persone invisibili, disabili. Fermiamoci un attimo, Gino. Allora, Giuseppe Roma, ho mandato una sventagliata di interventi per far capire poi alcuni punti che confermano comunque quella che è la vostra ricerca. Disorganizzazione totale, non centralità di intervento, interventi spot, interventi non mirati, soldi elargiti probabilmente più agli enti mediatori, alle cooperative, piuttosto che occuparsi che la qualità del servizio erogata sia tale. Vediamo se possiamo dare qualche altro elemento. Ma insomma, gli elementi ci sono, nel senso che è evidente che non si può fare affidamento solo sulle famiglie e sull'impegno dei genitori o dei figli quando si tratta di un genitore anziano. È evidente che allo stesso tempo, con le restrizioni di finanza pubblica, non è pensabile oggi solo parlare di soldi, bisogna parlare di un'organizzazione migliore, di eliminare alcuni sprechi, ma anche destinare risorse effettivamente alle persone che ne hanno bisogno, nei servizi, nel sistema assistenziale. Io credo che la soluzione è una soluzione mista, cioè è una soluzione in cui il pubblico dà le sue direttive e anche investe più risorse, ma poi dal volontariato alla cooperazione sociale, alla cooperazione fra i genitori che possano già oggi pensare al domani, ecco, questa integrazione di vari strumenti sia la soluzione possibile, perché il problema va intanto affrontato nella sua gestione. E poi secondo me c'è un altro aspetto, cioè quello di dare al mondo delle disabilità una maggiore spazio nella comunicazione, e non solo nella comunicazione radio, giornali, media, ma io credo anche nella vita di tutti noi, perché è impensabile che abbiamo questa freddezza, questo distacco, quando sappiamo bene che può capitare a ciascuno di noi di avere questo problema, e quindi io credo che nella dimensione solidale che dobbiamo sviluppare in un momento difficile per tutti, in questo caso io credo che si faccia proprio, si debba far forza sull'umanità diffusa. E quindi, ecco, come ti spieghi che in realtà ci sia così poca attenzione da parte della politica, che sono numeri molto importanti questi, mi sembra impossibile che nessuno abbia idea che in fondo 5 milioni di famiglie potrebbe essere una bella platea di consenso se uno facesse qualcosa, e gli interventi poi non sono così difficili o impossibili. Io penso che tutti abbiano la sindrome dell'austerità, quindi qualsiasi impegno può voler dire doversi impegnare anche a destinare delle risorse magari verso quest'area piuttosto verso un'altra, e questo crea difficoltà. In più io penso che poi la politica purtroppo è lontana ancora, nonostante tanti cambiamenti. Scusa, mi fa rabbrividire quello che dici. Io ricordo un manifesto nella Germania nazista dove c'era un disabile, dice: questo disabile costa alla comunità quanto costerebbe fare una casa per una coppia di giovani sposi. Sì, non facciamo di questi paralleli, però io non credo che sia tanto questo, non è un fatto efficientista, è che io credo che per qualsiasi problema che oggi si pone è come se la politica andassero tutti dietro la stessa palla, no? Che è una palla di visibilità, di comunicazione sui grandi temi, sulla manutenzione dei luoghi comuni per i quali uno sta da una parte e uno sta dall'altra. Chi oggi prende in mano alcuni problemi e li porta avanti? Io penso che c'è per esempio il mondo del volontariato, dell'impresa sociale, nonostante tutte le critiche che vengano fatte, rappresenta un punto di riferimento, però la politica in sé sembra oggi navigare verso altri lidi. E di questo era il senso della mia premessa. Grazie Giuseppe Roma, ricordo direttore del Censis.